ridere, impari prima a piangere. Chi vuol capire, prima deve riuscire a domandare. Chi vuole vincere, impari prima a perdere. Chi vuol tenere, prima deve sapere cosa lasciare. Chi vuole insistere, impari prima a cedere. Chi vuole amare, prima deve imparare a rinunciare. Io so inventare, so improvvisare, senza regole né strutture, faccio come mi pare. So immaginare una storia intera, senza una sola parola vera, faccio come mi pare, come mi pare. Sono libero ed incosciente, quindi posso serenamente fare come mi pare. Piangere.